Italia in controluce. Buona mattina, vi parla Daniele Biacchessi che conduce Italia in controluce. Come sapete, il quotidiano di Radio 24 sulla cronaca italiana con un taglio di magazine e di inchiesta. Sono due edizioni al giorno che trovate a quest'ora e poi alle 13.30. Oggi parliamo di discariche in Campania, collocate, lo sapete, in luoghi dove è più alto il rapporto tra numero di abitanti e superficie abitativa. Intorno alle discariche si vive e si muore, spesso in silenzio, uccisi da tumori che non risparmiano nessuno. Il reportage firmato quest'oggi da Valeria De Rosa. Io dico sempre che noi camminiamo su un cimitero sommerso di rifiuti. Dovunque scavi, dovunque fai un fosso, rischi di trovarti un immondezzaio sotto i piedi. Questa è la situazione. Vittorio Operato è un avvocato. La battaglia alle discariche in Campania è diventata la sua battaglia. Il numero preciso non lo conosce nessuno, ma per dare un'idea, nelle sole province di Caserta e Napoli ci sono 4.000 discariche, tra legali e illegali. Tra quelle illegali, poi, ci sono quelle che si vedono e tante che non si vedono, intombate. Ma il loro carico di morte lo hanno seminato piano piano. Lucia De Cicco, a Giugliano, la conoscono tutti. Nel 98 mio padre è morto di tumore. E non siamo nel territorio giulianese, cioè noi siamo comunque di Napoli, trasferitici a Giugliano nel 91. Quindi diciamo che esposizioni prima di quell'epoca non siamo stati esposti. Abbiamo vissuto un periodo dal 91 ad oggi purtroppo di malattie. Poco fa è morta una mia cara amica di 35 anni. Basta rivolgersi un attimino a quello che è un ASL, vedere quante esenzioni ticket per patologie tumorali ci sono a Giugliano e ci rendiamo conto dell'aumento di incidenza tumorale nel nostro territorio. Questo succede nelle case di Napoli, Quagliano, Chiaiano, Terzigno, Acerra. L'elenco è lungo. Com'è lunga la lista di chi si è ammalato in Campania e continua ad ammalarsi. Patologie tumorali, patologie infantili, malformazioni e intossicazioni da diossina già nella pancia della mamma, qui più che altrove. E allora un nesso con tutta questa immondizia sepolta ci sarà. Gaetano Rivezzi è un pediatra ed è anche il vicepresidente nazionale per il Sud Italia dei Medici per l'Ambiente. L'interfacciamento per esempio dei dati ambientali e dati sanitari non lo fa nessuno, si deve fare soltanto tramite studi mirati, ma fare degli studi mirati dove c'è una committenza da parte del politico verso l'epidemiologo, capisce bene che i dati poi sono dati che subiscono sempre il pro e contro, una raccolta di dati che può essere criticata oppure eventualmente non fatta senza conflitto di interessi. Questo è il punto. I dati in Campania non vengono raccolti e anche quando vengono raccolti, il dottor Rivezzi per esempio ha condotto uno studio sulla diossina nel latte delle madri, nessuno gli presta attenzione. In Campania un registro dei tumori c'è, anzi due, uno per la provincia di Salerno e uno che comprende 35 comuni della provincia settentrionale di Napoli, tra cui Terzigno, e che viene definito registro della Campania, la prima anomalia, che purtroppo non è l'unica. Si sarebbe dovuto potenziare ed estendere nel corso degli anni successivi. Questo però non si è mai fatto. Le motivazioni per cui non è mai avvenuta questa scelta politica, poi in effetti, sono varie. Sicuramente è un po' tutto il sistema della registrazione oncologica in Campania, che è stato un settore molto trascurato. Poi, in piena emergenza rifiuti, nel 2007 la giunta della Regione Campania dà vita a un'importante delibera, perché si prende atto che la situazione è addirittura agghiacciante, drammatica. Si legge testualmente in questa famosa delibera che è necessario, improcrastinabile, pianificare lo sviluppo di attività di sorveglianza epidemiologica circa lo stato di salute della popolazione campana e che si dice addirittura che ad oggi non esiste un sistema di sorveglianza tale da consentire delle valutazioni rapide in campo di tutela della popolazione dai rischi ambientali. A questo punto vengono stanziati dei soldi per ampliare il registro, i primi nel 2007, gli ultimi 1,5 milioni, con una delibera del dicembre 2009, ma a distanza di pochi mesi, marzo 2010, questi soldi non si trovano già più e intanto le patologie aumentano e se ne accorgono tutti i giorni i medici di famiglia. Noi siamo molto preoccupati, non perché ci sia un aumento nettissimo dei tumori, perché mentre una forma tumorale diminuisce, un'altra può aumentare. Io mi devo chiedere perché sta aumentando quell'altra forma. in Campania non ci sono centri che analizzano i tumori, non se ne frega nessuno quasi della prevenzione. Lo screening della mammella è bassissimo, invece muoiono donne, 800 donne per esempio nel 2006 sono morte in Campania. Sicuramente c'è un'incidenza maggiore per le patologie tiroidee e i tumori della tiroide. I tumori infantili lo sappiamo tutti che stanno in aumento, per esempio poi invece i tumori polmonari, però di forme differenti da quelle che possono essere il tumore legato al fumo, i tumori del colon e dell'intestino aumentano nettissimamente e aumentano a un'età anche inferiore a quanto fosse prima, per cui se adesso una persona di 50 anni c'è un tumore del colon sembra una cosa normale. I dati non servono solo per rimediare a una situazione sanitaria drammatica, ma anche perché sono l'unico strumento per dimostrare il nesso di causalità in un'aula giudiziaria. Il procedimento di pianura, con ipotesi di reato di omicidio colposo e epidemia colposa, è stato archiviato per questo: mancanza di dati certificati. Se noi riusciremo finalmente a dimostrare che la convivenza forzata dell'uomo con la discarica, con l'inceneritore nei pressi del centro abitato è una convivenza, probabilmente fatale, una convivenza che incide pesantemente sulla salute della gente, sarebbe per noi una vittoria incredibile dopo anni di lotta, perché non dimentichiamo che Terzigno, Villaricca, Barigliano, Qualiano, Acera sono solo la punta dell'iceberg e lì davvero si piangono morti che non hanno avuto giustizia. A Chiaiano, a Terzigno, ad Acerra, a Pianura, la gente manifesta, ma la loro non vuole essere una protesta a senso unico. Noi non siamo il popolo del no, noi siamo il popolo del sì, ma la salute non ha costo. I nostri sindaci, che sono le prime autorità per quanto riguarda in materia sanitaria, fanno finta di non vedere. Questo ci fa male, perché anche loro sono genitori. Italia in Controluce, la prima edizione, siamo anche su Facebook, Twitter, raggiungibili via mail con controluce@radio24.it. La mia voce torna oggi alle 13.30 in diretta, come sempre le nuove inchieste oggi sugli omicidi di Fausto Egliaio e Valerio Verbano, omicidi degli anni 70 rimasti ancora irrisolti.